Cari fratelli e sorelle, proseguiamo nella serie di ritratti degli apostoli scelti direttamente da Gesù durante la sua vita terrena. Abbiamo parlato su San Pietro, suo fratello Andrea. Oggi incontriamo la figura di Giacomo. Gli elenchi biblici dei dodici menzionano due persone con questo nome, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giacomo, figlio di Alfeo, che vengono comunemente distinti con gli appellativi di Giacomo il maggiore e Giacomo il minore. Queste designazioni non vogliono certo misurare la loro santità, ma soltanto prendere atto del diverso rilievo che essi ricevono negli scritti del Nuovo Testamento, in particolare nel quadro della vita terrena di Gesù. Oggi dedichiamo la nostra attenzione al primo di questi due personaggi omonimi. Il nome Giacomo è la traduzione di Iacobos, forma grecizzata del nome del celebre patriarca Giacobbe. L'apostolo così chiamato è fratello di Giovanni e negli elenchi suddetti occupa il secondo posto subito dopo Pietro, come in Marco, o il terzo posto dopo Pietro e Andrea nei Vangeli di Matteo e di Luca. Questo Giacomo appartiene insieme con Pietro e Giovanni al gruppo dei tre discepoli privilegiati che sono stati ammessi da Gesù a momenti importanti della sua vita. Perché fa molto caldo, vorrei abbreviare e menzionare qui solo due di queste occasioni. Cioè, poteva lui, insieme con Pietro e Giacomo, partecipare nel momento dell'agonia di Gesù nell'orto di Getsemani e nell'evento della trasfigurazione di Gesù. Si tratta quindi di situazioni molto diverse l'una dall'altra. Sul monte della trasfigurazione Giacomo con gli altri due apostoli sperimenta la gloria del Signore, lo vede nel colloquio con Mosè ed Elia, vede trasparire lo splendore divino in Gesù. Nell'orto degli ulivi invece si trova di fronte alla sofferenza e all'umiliazione, vede con i propri occhi come il Figlio di Dio si umiliò facendosi obbediente fino alla morte. E certamente questa seconda esperienza costituì per lui l'occasione di una maturazione nella fede, l'occasione di correggere l'interpretazione unilaterale trionfalista della prima occasione della trasfigurazione. Dovette intravedere che il Messia atteso come un trionfatore in realtà non era soltanto circonfuso di onore e di gloria, ma anche di patimenti e di debolezza, che la gloria di Cristo si realizza proprio nella croce, nella partecipazione alle nostre sofferenze. Questa maturazione della fede fu portata a compimento dallo Spirito Santo nella Pentecoste, così che Giacomo, quando venne il momento della suprema testimonianza, non si tirò indietro. All'inizio degli anni 40 del primo secolo, il re Erode Agrippa, nipote di Erode il Grande, come ci informa Luca, cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. La stringatezza della notizia, priva di ogni dettaglio narrativo, rivela, da una parte, quanto fosse normale per i cristiani testimoniare il Signore con la propria vita e dall'altra quanto Giacomo avesse una posizione di spicco nella Chiesa di Gerusalemme, anche naturalmente a motivo del ruolo svolto durante l'esistenza terrena di Gesù. Una tradizione successiva, risalente almeno a Isidoro di Siviglia, racconta di un suo soggiorno in Spagna per evangelizzare quella importante regione dell'Impero Romano. Secondo un'altra tradizione sarebbe invece stato il suo corpo ad essere trasportato in Spagna nella città di Santiago di Compostela. Come tutti sappiamo, quel luogo divenne oggetto di grande venerazione ed è tuttora meta di numerosi pellegrinaggi, non solo dall'Europa ma da tutto il mondo. È così che si spiega la rappresentazione iconografica di San Giacomo, in mano il bastone del pellegrino e il roto del Vangelo, caratteristiche dell'apostolo itinerante dedito all'annuncio della buona notizia, caratteristico per il pellegrinaggio della vita cristiana. Da San Giacomo dunque possiamo imparare molte cose: la prontezza ad accogliere la chiamata del Signore anche quando ci chiede di lasciare la barca delle nostre sicurezze umane, l'entusiasmo nel seguirlo sulle strade che egli indica al di là di ogni nostra illusoria presunzione, la disponibilità a testimoniarlo con coraggio se necessario fino al sacrificio supremo della vita. Così Giacomo il Maggiore si pone davanti a noi come esempio eloquente di generosa adesione a Cristo. Egli, che inizialmente aveva tramite sua madre chiesto di sedere con fratello accanto al Maestro nel Regno, fu proprio il primo di bere il calice della passione, di condividere con gli Apostoli il martirio. E possiamo alla fine, riassumendo tutto, dire: il cammino non solo esteriore ma soprattutto interiore, dal monte della trasfigurazione al monte dell'agonia, simboleggia tutto il pellegrinaggio della vita cristiana tra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio, come dice il Concilio Vaticano II. Seguendo Gesù come San Giacomo, sappiamo anche in difficoltà che andiamo bene. Andiamo sulla strada giusta. Grazie.